Una suora sotto l'aspetto di una serpe. 8 febbraio. Ora si presenta, io spaventoso, con violenza inaudita. Non ho mai visto un tale spettacolo, e nemmeno sentito, tempesta, urla, capovolgimento di mobili gettati a terra, proprio tutto quello che non si vorrebbe sentire. Comunque voglio essere coraggiosa. Non riesco ancora a vedere nulla. 9 febbraio. C'era in camera un tale uragano, come se porte e finestre fossero state spalancate e ti avessero sbattuto assieme. Di nuovo un'angoscia terrificante, una paura che cresce a non finire. E come posso prestare aiuto agli altri, quando io stessa avrei un gran bisogno di essere aiutata? 12 febbraio. Fu una cosa talmente aspra e forte, che per la paura il sudore scendeva a goccioloni fino a terra. Nella mia infinita miseria mi sentii così sola, come non mai. Una invisibile potenza sembrava infuriasse attorno a me. Poiché fu sollevato perfino il mio letto, mi rifugiai in un'altra stanza. Mi avvolse un furioso uragano, allora aprii la finestra, fuori era tutto tranquillo. 13, 14 e 15 febbraio. Sempre lo stesso, fracasso e spavento. 18 febbraio. Fu così tremendo, che ne uscii malata finita. Ho continuato a recitare il Salmo 90, qui abitat in adiutorio altissimi, in protectone dei coelicum morabitur. Chi sta sotto l'aiuto dell'Altissimo, dimora sotto la protezione del Dio del cielo. Questo Salmo è particolarmente adatto per me, perché anche intorno a me c'è il timore notturno, saette che volano di giorno, macchinazioni della tenebra, incursione diabolica dei mezzogiorno, tribolazione di tutto. E senza la fiducia in Dio non resisto più. 19 febbraio. In mezzo al fuoco si è disvincolato un mostro scuro, dal quale viene il frastuono tremendo. Dalle fiamme non esce alcun calore. La tempesta di prima è cessata. Ho adoperato tantissima acqua santa. Per essere sincera, devo dire che al momento mi trovo in una situazione di spirito molto cattiva, sono diventata così povera nel dare. A forza di non star bene, la mia anima deve soffrire la fame, e lo sento sempre di più. La mia forza sta per finire, se non posso attingere dal tabernacolo. 21 febbraio. Adesso è lui luci mostro spaventoso, la cosa che più mi fa paura. Il mostro nero è una serpe. Quando la vidi mi sentii paralizzata dalla paura. È una cosa tremenda per me, che ho paura da un orbettino. La bestia è molto lunga, forse 3 metri, ho tanta paura, che tremo al sopravvenire di ogni notte, non riesco affatto a fare alcun sacrificio. Le fiamme sono sparite, e anche lo sbattere. Finora sta ancora quieta. Mi si augura la buona notte. Ed io vado incontro al grande tormento. Ecco che di nuovo mi sono lamentata, adesso devo dire, basta. Dio non mi manda di più di quanto posso sopportare. Ho pensato che, forse queste annotazioni potessero essere per me come una medicina calmante, poi la cosa diventa più facile. Nota. Sebastiano Wieser, suo confessore, le aveva consigliato di tenere un diario, perché non comunicasse a quanti le stavano accanto e vivevano con lei quello che le succedeva e anche con l'idea che in questa maniera poteva scrivere qualche cosa dell'anima. Sappiamo che anche Goethe riteneva lo scrivere come una liberazione. 23 febbraio. La serpe venne solo dopo l'una. Essa si fece sentire con un tonfo, come quando un corpo cade dall'alto. Rimase a lungo distesa davanti a me, non è però 3 metri, come credevo, ma solo un po' più di 2 metri, la ho misurata con la parete dove stava. Fu abbastanza quieta. Le ho detto che farò di tutto per aiutarla, perché non mi si avvicini. Questo no. Verso le 3 penetrò attraverso il muro accanto al mio letto nella stanza di W, che in quel momento fece un urlo. Quando al mattino chiesi se aveva dormito, la donna, che lo assiste, disse: «Non so che cosa abbia avuto, alle 3 si è svegliato e ha gridato come se avesse avuto paura da qualche cosa». Quando mi rincresce che il povero bambino debba patire, solo, perché la sua stanza è accanto alla mia. 24 febbraio. Il povero animale ha gli occhi di fuoco, nei quali è sepolta la sua infinita sofferenza e agitazione. Pregare con una bestia è una sensazione del tutto particolare. Mi sono presa con me la reliquia di Santa Croce, che mi dà una certa tranquillità. La bestia stava arrotolata a ciambella. Non so che cosa preferisco. Non mi sono affatto coricata, cosa che era più comoda. Solo non pensare che cosa potrà ancora accadere. Le ho proibito di entrare nella stanza del bambino, minacciandola di non fare più niente per lei altrimenti. Vuol dire che ho un certo potere su di essa, cosa che mi fa bene. Uscì fuori nel corridoio strisciando. 25 febbraio. La ho osservata perfettamente, è di colore grigio scuro con striature bianche. È assolutamente impossibile pensare che non sia un corpo reale e tangibile, ma solo un parto della fantasia. Chi la pensa così non ha mai provato una cosa del genere, e quindi non può sapere. Io la ho colpita alquanto con il mio bastone, e subito essa si è arrotolata come una ciambella. Non fu una cosa facile, ma volli rendermene conto, per poterlo poi affermare. 26 febbraio. Dopo che ebbi pregato assieme, essa si snodò così vicina da far spavento. Ad essa sembra che la cosa faccia bene, a me fa malissimo. Tanto che feci un balzo sulla sedia. Nessuna risposta alle mie domande. 2 marzo. La mia superbia fu punita, non ho proprio alcun potere su di essa. Quando le ordinai di stare ferma, si è mossa strisciando verso di me e mi ha soffiato. Lo spavento che provai non lo si può descrivere. 3 marzo. Una giornata davvero spaventosa. Vidi la serpe pendere da un albero di fronte alla mia scrivania. Uscii precipitosamente dalla mia stanza, per salvarmi da lei presso altre persone. Dopo un'ora tornai, e quella se ne stava ancora in camera. Di giorno è ancora più orrenda. Sono scappata di nuovo fuori. Ma quella strisciò attraverso la porta contro di me e disparve. La cosa spaventosa avvenne però durante la notte. Essa venne giù dal soffitto. Non so di più. Ma deve essere così, quando uno è colpito da un colpo apoplettico. 4 marzo. Il serpente parla. Io, vieni finalmente e mostrati come tu sei stato. Non ti posso più sopportare così. Lui, colpa tua. Io, ti do ancora troppo poco? Lui, sì. Io, la mia forza è consumata, la paura di te mi divora. Lui, tu non sei pura, senza macchia. Io, purtroppo. Dimmi, come fai a saperlo? Lui, c'è del torbido attorno a te. Io, grazie. Cambierà. Ed ora la cosa più tremenda. Si arrotolò tutto, poi si slanciò contro il mio letto. So solo di aver urlato. Ma poi era sparito. Lo spavento però scosse le mie membra tutto il giorno. 5 marzo. Ero andata a ricevere i Santi Sacramenti. Tornata a casa volli riprendere il mio lavoro, qualche cosa lo afferrava. Non pensai subito ad una presa da parte di spiriti, ma credetti si trattasse di uno scherzo. Poi vidi improvvisamente una mano con un anello di argento, come lo portano le monache, essa afferrava il mio lavoro. Dopo un po' si formò una figura nebulosa, però si distingueva ancora sempre solo la mano. Io, sei la serpe? Lei, sì, mi hai conosciuta e disprezzata. Io, chi sei? Dimmi il tuo nome. Lei, mi conoscerai, adesso aiutami. Dopo ho pregato un poco con lei, poi io stessa fui come avvolta in una nube, ed essa sussurrò. Tu hai odiato le mie bugie. Non avevo la minima idea di chi poteva essere. Ma ora sono io l'anima liberata, se la serpe non viene più. Quanta sono grata a Dio, che mi ha tolto via quella cosa tremenda. 6 marzo. L'apparizione rimase, lui a lungo, una striatura di nubi con le mani, essa è così mite, che riuscii ad addormentarmi mentre era qui. Essa non fa nessuna reazione a niente. 8 marzo. La nuvola si infittisce di più, è una donna, non riesco a pensare chi possa essere. Non so nemmeno di aver avuto disprezzo per qualcuno.